Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Alberto Dossi, oltre 90 anni di innovazione sostenibile, motore d'impresa, di Anna Marino. Da piccolo io chiaramente avevo una predisposizione all'innovazione, seppur in maniera elementare, perché quando si è piccoli, però io vedevo sempre mio padre, e mio padre lavorava praticamente tutta la settimana, il sabato e anche la domenica mattina, perché soltanto la domenica pomeriggio lui riposava, e la domenica mattina io, da veramente piccolo, andavo con lui tenuto per mano a fare il giro dello stabilimento. Quindi ho potuto cominciare a respirare il discorso dell'azienda, della fabbrica, a conoscere quelli che erano gli impianti e cominciare ad assorbire tutte queste belle cose che poi mi sono rimaste in realtà dentro. E i giochi preferiti da piccolo erano i trenini, il Märklin, facevo dei plastici bellissimi, c'era già il Lego e c'erano le piste elettriche con le automobiline. Io sono di Monza, ho una grande passione per l'automobilismo, per la meccanica, per la tecnologia. Ho sempre seguito la Formula 1 proprio perché c'è la tecnologia esasperata. Ha vissuto la passione di famiglia per l'innovazione fin da piccolo Alberto Dossi, presidente del gruppo Sapio, grande industria italiana specializzata nella produzione di gas tecnici e medicinali. Tutto infatti è iniziato dal padre di Alberto, Piero Dossi, e da alcuni saldatori di lavoro. Tutte le cose nascono in maniera curiosa. Mio padre andava all'università a Pavia, faceva chimica pura e ha sostenuto una tesi sul frazionamento dei gas. Allora, per andare da Monza a Pavia era un viaggio interminabile, bisognava cambiare carrozze, treni, eccetera. E un giorno, entrando nella stazione centrale, ha visto degli operai che tagliavano dei vecchi vagoni ferroviari in piccoli pezzi da rimandare in acciaieria. Allora lui ha detto: bene, il gas non serve solo nel momento in cui c'è l'espansione, ma serve anche nel momento in cui c'è la demolizione, nel momento in cui c'è la crisi. E quindi io voglio provare a fare questo tipo di attività. Nata oltre 90 anni fa a Monza come piccola realtà con una forte impronta familiare, Sapio sta per Società Anonima Produzione Idrogeno Ossigeno, la storia dell'azienda ha attraversato quella d'Italia. Subito è nata la Sapio, è Società Anonima Produzione Idrogeno Ossigeno. Allora, le società erano anonime perché gli imprenditori non dovevano comparire. C'erano dei professionisti, questo era l'uso comune, di tenere tutto molto riservato, al contrario di oggi, che invece bisogna essere molto trasparenti, molto divulgativi. La Sapio è nata da due famiglie monzesi, la famiglia Dossi e la famiglia Colombo. Mio padre è stato quello che l'ha praticamente aperta e costituita, e dopodiché è passato, e per questi 92 anni abbiamo un po' accompagnato quella che è stata l'espansione di tutta l'attività industriale italiana. Non dimentichiamoci che siamo passati dai 5 anni della guerra. Da 40-45 la nostra azienda e mio padre, l'azienda era considerata un'azienda bellica, e mio padre ha dovuto presidiare questa azienda proprio perché noi fornivamo ossigeno alle aziende che fornivano materiale militare. Dal 1922 le cose sono cambiate. Il gruppo Sapio oggi fattura 457 milioni di euro, dà lavoro a 1450 dipendenti, ha 7 unità produttive e 30 sedi in Italia e in Germania, in Slovenia e in Turchia, e ha il 95% del fatturato in Italia. Io ci tengo a dire che non si parla di delocalizzazione nel modo più assoluto. La diversificazione non porta il lavoro all'estero, non delocalizza, semplicemente diversifica il rischio paese, perché è giusto che un'azienda, è una responsabilità sociale anche nei confronti delle 1500 persone che lavorano per noi, avere una possibilità di giocare su scacchieri quantomeno europei. La società oggi è controllata al 51% dalla terza generazione delle famiglie fondatrici, Dossi e Colombo, che l'hanno creata nel 1922. Il restante 49% è della Air Products, multinazionale americana da 9 miliardi di dollari, quotata a Wall Street, fornitrice di gas dell'aria e tecnologie a tutti i settori industriali. Una joint venture cominciata 24 anni fa. Noi è 24 anni che teniamo le redini dell'azienda. L'azienda è italiana, la governance è italiana e su questo è un punto di orgoglio. Nel solo settore industriale, il mercato di riferimento del gruppo Sapio è enorme. Il 95% dell'industria mondiale, e cioè quasi tutte, infatti, impiega i gas tecnici nei processi produttivi. Sono questi che consentono di creare le bollicine delle bevande e surgelare correttamente gli alimenti, produrre i microchip, depurare le acque e bonificare terreni e sottosuolo, far funzionare gli impianti fotovoltaici o saldare i metalli. Serve gas persino per ripulire reperti archeologici di grande valore o i muri deturpati delle grandi città. Prima di arrivare fin qui, la storia di Sapio è stata costruita mattone dopo mattone da episodi rocamboleschi, ripartenze, ma soprattutto dalla grande tenacia delle prime generazioni. I primi grandi impianti è andato a comprarli in Germania, alla Messer Griesheim. E ha dovuto andare in Germania, ha dovuto imparare il tedesco, ha dovuto imparare che cos'era una colonna di frazionamento, che peraltro aveva studiato nella tesi, ma un conto è studiarla nella tesi, un conto invece è metterla in pratica. Poi alla fine ha imparato e ha comprato una piccola colonna, 200 metri cubi ora di gas, che oggi è proprio minima, perché le taglie oggi sono assolutamente diverse. È tornato a Monza con la colonna, l'ha montata nello stabilimento, ha schiacciato il bottone e la colonna è esplosa. Lo stabilimento è esploso e praticamente è rimasto solo il portone d'ingresso. Fortunatamente nessuno degli operai è morto, non ci sono stati danni a persone, soltanto lo stabilimento. Allora uno si pone l'interrogativo e dice: beh, ho scherzato, cambio settore, mi butto nel settore dei cappelli, il settore alimentare. Mio padre no, è ritornato in Germania, ha rispeso altri 6 mesi, ha ricomperato un altro impianto, l'ha rimontato, è partito e così è nata la società anonima produzione idrogeno e ossigeno. Innovativo è anche il modo in cui l'azienda ha gestito nel corso degli anni il passaggio generazionale. Negli anni 80 è toccato ad Alberto Dossi. La gavetta è cominciata dai turni di notte. Sono entrato in azienda con umiltà. Subito mi ha messo a fare i turni di notte perché i nostri impianti vanno 24 ore su 24 a Ferragosto e Natale, perché praticamente non si fermano mai se non per una manutenzione programmata ed è un brevissimo periodo. Io ho cominciato a fare le notti sugli impianti, a dormire sulla brandina ed era una tuta blu a tutti gli effetti. Beh, dopo 15 giorni che facevo le notti sugli impianti, ho detto: guarda papà, ho imparato, ho capito. No, tu ci rimani, perché tu devi imparare a capire le persone, a conoscere le persone, a farti apprezzare dalle persone e a capire quanto tempo ci si impiega a fare un'operazione, così quando, se te lo meriterai, sarai nella sala di comando, riuscirai a capire i tempi e i metodi delle persone e nessuno potrà prenderti in giro. Per ogni settore industriale, energia e ambiente, meccanica ed elettronica, siderurgia e agroalimentare, sono necessari gas tecnici diversi, erogati puri o miscelati su misura. Anche nel settore sanitario, dove dal 1989 la divisione Sapio Life, che oggi pesa per il 45% sul fatturato complessivo, produce i gas medicinali per migliorare la vita dei malati e in alcuni casi per salvarla. E nel 2005 Sapio ha creato BioRep, la più grande biobanca nazionale a scopo di ricerca. È la sostenibilità, un dovere sociale e morale, il faro di Sapio, importante non soltanto in vista di Expo 2015, ma per il mercato stesso. È assolutamente molto importante per il futuro del globo e per il futuro dell'uomo, perché insomma, in fin dei conti, i nostri quattro settori dove andremo a investire nei prossimi anni, perché se è vero, come è vero, che ci sono dei settori maturi che non danno più crescita, sui quali non vale più la pena investire, ci sono quattro settori importanti e sono l'energia, l'ambiente, l'agroalimentare e la sanità. Ecco, sono tutti settori che interessano la vita dell'uomo. L'innovazione di Sapio nel 2013 ha focalizzato ben 45 milioni di euro solo per assicurare le attività di ricerca e sviluppo e per rinnovare le proprie tecnologie, per rispondere alle esigenze del piccolo artigiano o di una grande industria, in qualsiasi settore operino. C'è anche un indirizzo di posta elettronica al quale tutti i lavoratori possono scrivere per proporre soluzioni innovative di processo e di prodotto. L'azienda crede a tal punto nel valore della ricerca da aver istituito nel 1999 il premio Sapio per la ricerca italiana, che valorizza il lavoro e l'impegno dei giovani. Il premio ha già previsto 76 giornate di approfondimento e ha distribuito premi a 58 ricercatori. E per Alberto Dossi anche l'innovazione ha un motore. Io credo che con la ricerca e l'innovazione daremo un futuro ai nostri bambini. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.